Benissimo, siano lodati Gesù e Maria. Vediamo se con l'aiuto della Divina Misericordia riusciamo a far partire questo travagliato incontro biblico di questa sera, dove parleremo del libro dei Proverbi, subito dopo il libro dei Salmi che abbiamo appena accennato la volta scorsa. Ora tenete presente che più andremo avanti, più questi libri saranno rapidamente accennati, quindi questi incontri sono per dare un po' una visione d'insieme, qualche chicca, qualche pick up dai passi più salienti, però fondamentalmente poi è cosa molto buona e giusta dedicarvi spazio e tempo per la lettura e la meditazione personale. Adesso il libro dei Proverbi, qui vediamo ancora Salomone al cospetto della regina di Saba, perché vedremo subito che il libro dei Proverbi è stato attribuito dalla tradizione a Salomone. Quindi anche se moderni le esegeti si scervellano per postatare, per disattribuire quest'opera da re Salomone, io, nonostante che sappia tutte quante le loro argomentazioni, perché l'ho studiate, preferisco attenermi al dato della tradizione, anche perché, come vedremo, si appoggia su un dato testuale, per cui o bisogna dire che nella Bibbia dicono le bugie, oppure il libro dei Proverbi l'ha scritto Salomone. A volte sono delle cose talmente ovvie che però sembra che questi intelligentoni moderni non è che ci arrivano tanto. Il sottotitolo è La via dei principianti. Perché? Perché il libro dei Proverbi apre una trilogia di testi su cui hanno veramente scritto fiumi di inchiostro e fiori di letteratura i padri della Chiesa. Sono Proverbi, Coelet e Cantico dei Cantici, secondo l'attuale edizione. Coelet anticamente era chiamato l'Ecclesiaste nella traduzione della Vulgata. Ora, questa trilogia, Proverbi, Coelet e Cantico dei Cantici, secondo i padri della Chiesa corrisponde ai tre gradi di perfezione o ai tre gradi di santificazione progressiva che le anime percorrono prima di raggiungere le vette della santità. Queste tre vie sono indicate nella tradizione con il nome di principianti, di proficienti e di perfetti, oppure incipienti o progredienti o perfetti, oppure la via purgativa, illuminativa e unitiva. Ci sono tante formule, insomma, per descrivere questi tre gradi. Il libro dei Proverbi rappresenta il primo grado. Ora, la via dei principianti è quella di coloro che si convertono, quindi hanno una grossa conversione, quindi passano dalla situazione di disgrazia di Dio alla grazia di Dio, ma stanno agli inizi, stanno ancora informi, per cui hanno bisogno di un nutrimento proporzionato alla loro infanzia, diciamo così, spirituale, che cominci un pochino a istruirli sulle cose di Dio. Ecco, il libro dei Proverbi sotto questo punto di vista è abbastanza soft, d'accordo? Quindi è molto profondo, ma non contiene, come dire, insegnamenti devastanti o dirompenti. Dà proprio l'idea di una prima iniziazione, diciamo così, ai contenuti della sapienza cristiana. La settimana prossima, che è la settimana santa, se Dio vuole, faremo invece il libro del Coelet. Il libro del Coelet distrugge. Il libro del Coelet ha proprio il compito di passare alla seconda fase, che è la fase un po' più dolorosa, che è quella in cui la persona, progredendo, proprio si distacca totalmente dal mondo, e per farlo deve concepire una profonda avversione per le cose di qua giù. Vedremo che il libro del Coelet, che alcuni sciocchi, insomma, hanno bollato come pessimista o come libro che ti fa venire angoscia o cose di questo genere, svolge proprio questa funzione, cioè quella di far prendere coscienza della caducità e della relatività assoluta delle cose terrene, perché l'anima si slanci definitivamente verso l'alto e poi nel Cantico dei Cantici raggiunga l'unione con Dio. Il Cantico dei Cantici è un canto d'amore espresso in forma allegorica tra uno sposo e una sposa, che vedremo per il suo tempo. Se Dio vuole lo faremo il martedì dopo Pasqua, che bello, fantastico, proprio non sono state cose studiate, questo ci è capitato a caso. Certo, fare il Coelet martedì dopo Pasqua sarebbe stato un po', avremmo dovuto fare una variante, ma ci è capitato, quindi se il Signore ci concederà di fare i due prossimi incontri è proprio capitato in maniera perfetta, casualmente perfetta. Quindi intanto oggi cominciamo dal libro dei Proverbi, che andiamo adesso subito a vedere nelle sue linee essenziali, cioè l'autore e la struttura. L'autore, come vi accennavo, è Salomone, ed è Salomone semplicemente per un motivo abbastanza elementare, che se uno va a prendere il libro di Proverbi, lo apre e legge il primo versetto, troverà scritto, lo vedete anche in piccolino, Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Quindi è proprio l'incipit. Quindi, o nella Bibbia ci stanno scritte le bugie, lo ritengo un pochino difficile, oppure il libro dei Proverbi è da attribuire al re Salomone. Detto questo, è l'autore stesso, se voi seguite, che dà una struttura in 9 parti. Qui sotto, per la verità, ne trovate elencate 8, perché in uno dei libri, mi pare i detti, adesso poi lo vedremo, c'è un epilogo che è leggermente staccato, quindi che si può separare, adesso poi quando ci arriviamo lo vedremo. Quindi sono fondamentalmente 8 parti, che però possono diventare, se si stacca un pezzettino che poi vi dirò, 9. E se aprite la Bibbia di Gerusalemme, sono fedelmente seguite, perché è l'autore stesso che segue questa impostazione. Alla prima parte ci sono le raccomandazioni della sapienza, che dopo una breve intestazione, che è quella che abbiamo letto più qualche altro versetto, è la sapienza che parla e si rivolge agli uomini, dando molte raccomandazioni, perché abbraccia un arco di circa 8 capitoli, dall'1, 8, versetto 8, fino al 9, versetto 18. Dopodiché ci sono 2 rassegne di proverbi e di sentenze attribuite a Salomone. La prima va molto lunga, va dal capitolo 10 e fino al capitolo 22, versetto 16. Poi c'è, qui c'è un errore, c'è la raccolta dei saggi che va dal versetto 17 del capitolo 22, quindi non del capitolo 10, sarebbe da correggerlo subito se ci riusciamo. Quindi dal versetto 17 del capitolo 22 fino al versetto 24 del capitolo 24, poi c'è un'ulteriore sezione, ecco lì dove stavano la raccolta dei saggi, nella parte finale, negli ultimi 4-5 versetti c'è un epilogo di questa raccolta che darebbe vita alla nona parte. Poi c'è la seconda raccolta dei Proverbi di Salomone, dai capitoli 25 a 29, c'è una brevissima sezione dedicata ai detti di Agur, un saggio ebreo, una brevissima sezione dedicata ad alcuni proverbi numerici, ecco, espressivi di una saggezza a carattere prevalentemente popolare, una brevissima sezione dedicata alle parole di Lemuel, e poi l'epilogo che è dedicato, qui siamo quasi tutte donne, siete quasi tutte donne, il capitolo 31 del libro dei Proverbi, dovete prenderlo, leggerlo, meditarlo e poi versetto per versetto impararlo a memoria e poi metterlo in pratica alla lettera. Ecco. Se tutte le sante donne facessero questo, in breve il mondo sarebbe un giardino meraviglioso. Ecco. Che è l'elogio della donna saggia o della donna forte, ecco. Capito? Ora vediamo le tematiche che vengono affrontate, sono tematiche a carattere prevalentemente sapienziale. Allora, Qui vedete, vi ricordate quando portarono il grande caso a Salomone, la slide? Facciamo un po' di ripasso, eh? C'erano due donne che dice: questo è figlio mio, questo è figlio mio, a chi lo diamo? Vedete quello con la spada in mano che sta uccidendo un bambino, e quella che lo ferma dice: no, datelo a lei. Ecco, questa è la madre. Ecco, ok. Allora, numero uno, come ottenere la sapienza, tema importante, ma ancora più importante è come evitare la follia. Che oggi di pazzi in giro ce ne sono quanti ne volete. Ecco. E la mamma dei matti purtroppo non è una donna moderna, quindi non prende i contraccettivi, non usa la pillola, non mette la spirale, non fa nessun, zero. È aperta alla vita e si prende tutti i figli che il Signore gli manda, quindi il mondo è popolato di matti, purtroppo. Ecco, quindi già seguire i consigli su come evitare la follia sarebbe un'ottima terapia. Salutare. Poi, importanza dell'onestà e castighi dei disonesti. Questa è una sezione dedicata in particolare agli uomini politici attuali. Giusto? Ecco. Il Signore ci perdonerà che facciamo qualche piccola digressione un po' goliardica. Poi c'è l'amore e le sue forme e l'odio e la sua nefandezza. Quindi, i temi classici che sono stati trattati anche dai filosofi pagani, anche da un Seneca sono trattate tutte quante queste tematiche in maniera molto approfondita. Poi i vantaggi della mitezza e i danni dell'ira, questo vale per quelli che hanno l'arrabbiatura facile, ecco, e che hanno difficoltà nel praticare il self-control, come dicono i nostri amici inglesi. Poi la vanità delle ricchezze. Poi il valore della laboriosità di chi lavora e la condanna dell'ozio. Poi alcune regole, anche queste sarebbero da ripassare, nei rapporti figli-genitori. E qui ne ho lette alcune quando abbiamo fatto gli incontri per i genitori su come si educano i figli. Tipo, se ami tuo figlio usa il bastone. Perché se gli spacchi le ossa non succederà niente di male, ma se invece lo blandisci troppo, quando diventerà grande ti manderà gli accidenti. Ecco, e farà bene a mandarti. Poi ci sono i rapporti tra re e sudditi, tra uomo e donna, tra amici, i rapporti di amicizia e rapporti con i nemici, e anche i rapporti tra padroni e operai. Sparsi qua e là chiaramente in giro nel libro. Poi ci sono alcune esortazioni al timore di Dio, all'amore del prossimo, alla ricerca della verità, al silenzio, questo è rivolto sempre principalmente alle donne, alla pratica delle virtù cardinali, prudenza e temperanza soprattutto. Scusate un attimino, che qui dopo questo ve lo dovete scaricare, probabilmente molti di voi, e qui oggi è stata una giornata movimentata, e quindi facciamo qualche piccolo aggiustamento. Ok, andiamo avanti. Oh, quindi a questo punto passiamo direttamente alla slide ultima. E quindi abbiamo avuto questa breve presentazione, adesso andiamo nella parte un pochino più corposa, tanto per avere un'idea del libro dei Proverbi. Vediamo alcuni brani scelti. E io mi quasi vergogno, perché questa è proprio una cernita striminzita. Il libro dei Proverbi, tenete presente che è di facilissima comprensione, si può leggere, non dico come un romanzo, perché non è un romanzo, però non presenta passaggi particolarmente ostici, perché sono degli aforismi, tra l'altro sono scollegati molti l'uno dall'altro. Cioè, adesso leggeremo qualche saggio, tranne il primo libro dove parla la sapienza. Per esempio, le due raccolte dei proverbi di Salomone sono scritte, un versetto dice un proverbio, e nel secondo ce n'è sta un altro. Ma è vero che è molto difficile anche per certi aspetti meditarci. Perché non c'è un discorso per cui tu leggi 10 righe e si parla necessariamente di uno stesso argomento, ma è capace che tra un versetto e un altro passi, come diciamo noi, vicino Roma, di Paolo in frasca. Quindi cambi completamente oggetto del discorso. Ecco, qui vediamo ancora Salomone. Allora, primo, diciamo, brano assolutamente splendido sono le raccomandazioni della sapienza che troviamo in Proverbi, secondo capitolo. Adesso lo leggiamo, vedremo che il commento non sarà un granché perché sono parole abbastanza eloquenti, molto profonde alcune, ma anche facilmente comprensibili. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, è la sapienza che parla qui, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore, che è un tema fondamentale dei libri sapienziali, che abbiamo già visto, il timore santo del Signore, cioè il senso della sua presenza, l'obbedienza e l'adorazione che gli è dovuta, eccetera. E troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene, perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo. La riflessione ti custodirà e la prudenza veglierà su di te, per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre, che godono nel fare il male e gioiscono dei loro propositi perversi, i cui sentieri sono tortuosi, le cui strade sono distorte, per salvarti dalla donna straniera, dalla sconosciuta che ha parole seducenti, che abbandona il compagno della sua giovinezza, cronaca di ordinaria cronaca, ecco, e dimentica l'alleanza con il suo Dio. La sua casa conduce verso la morte e verso il regno delle ombre i suoi sentieri. Quanti vanno da lei non fanno ritorno, non raggiungono i sentieri della vita. In tal modo tu camminerai sulla strada dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti, perché gli uomini retti abiteranno nel paese e gli integri vi resteranno. I malvagi invece saranno sterminati dalla terra e i perfidi ne saranno sradicati. Vedete proprio il tema classico della sapienza. Quindi c'è il giusto che è radicato nel timore di Dio e chi vi sta lontano. Poi un altro brano scelto è come si acquista la sapienza, perché questi libri hanno proprio il compito di suscitare l'amore alla sapienza e di muoverci appunto a compiere i primi passi perché questa sapienza possa essere in qualche modo acquisita. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e tanta pace ti apporteranno. Questo c'è il tema dell'Antico Testamento, che un uomo benedetto da Dio ha una lunga vita. Ecco, però c'è anche un tema universale, che questo è vero anche nel Nuovo, che chi ha la sapienza gode di tanta pace, che è uno dei caratteri distintivi di chi vive in comunione con Dio. Bontà e fedeltà non ti abbandonino, legale attorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini. Ecco uno dei versetti chiavi: confida nel Signore con tutto il cuore e non affidarti alla tua intelligenza. Riconoscilo in tutti i tuoi passi ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non crederti saggio ai tuoi occhi. Temi il Signore e sta lontano dal mare. Sarà tutta salute per il tuo corpo, altro tema tipico dell'Antico Testamento, quindi giusto e benedetto da Dio con la salute del corpo, e refrigerio per le tue ossa. Altro aspetto molto importante, onora il Signore con i tuoi averi, con le primizie di tutti i tuoi raccolti. Questo è vero anche oggi, non dobbiamo dimenticare che i nostri soldi devono essere dati al Signore, non tutti. Ecco, ricordate i 5 precetti generali della Chiesa? Dicono che bisogna contribuire alla Chiesa secondo le proprie necessità. Quello è un precetto generale. Cosa significa un precetto? Non è che la Chiesa gli interessa che voi gli diate i soldi, ma è che onorare Dio anche in questa forma è doveroso, quindi non è un optional, dico se mi va lo faccio, se non mi va non lo faccio. Così come dare almeno una parte del superfluo a un povero, se leggete gli scritti di Giovanni Paolo II e anche la dottrina sociale della Chiesa, cioè noi facciamo la carità in senso stretto quando? Quando ci priviamo di qualcosa di nostro per darlo. Ma se noi abbiamo il superfluo il Signore ce l'ha dato perché noi lo condividiamo con chi è privo del necessario, per dare occasione al povero di esercitare l'umiltà e di vivere della provvidenza divina, e a noi di esercitare la longanimità e di agire noi per conto di Dio provvedendo a chi è privo del necessario. Ma Giovanni Paolo II, che non era certamente il beato Giovanni Paolo II, uno rigido, uno cattivo, in alcune encicliche dice: stiamo attenti a non scambiare la giustizia, quindi ciò che noi dobbiamo con il nostro superfluo che è privo del necessario, con la carità, perché a volte si tratta di un dovere di stretta giustizia. Altro, allora, se farai questo, non dobbiamo farlo per questo, ma questo lo dice anche Gesù nel Vangelo, 100 volte tanto è la vita eterna, i tuoi granai si riempiranno oltre misura, i tuoi trini traboccheranno di mosto. Quindi c'è una legge, sapete che questa legge l'ha copiata anche un grande economista americano nel secolo scorso? Cioè lui dice, no, dice, io c'ho poco, quindi mi devo conservare il poco che c'ho. Sbagliato. Vi ricordate Elia con la vedova? Tu c'hai poco? Dallo. Se dai quel poco, avrai il ritorno. Se ti trattieni quel poco che c'hai, perderai anche quello che c'hai. Vi ricordate Gesù nel Vangelo? A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Keynes, io me lo ricordo, è una delle poche cose che mi ricordo di economia politica, ha fatto uscire l'America dalla grande crisi del 29, perché sapete che una crisi c'è quando purtroppo uno produce e non c'hai una domanda e quindi ti rimani, cioè non circola ricchezza, perché praticamente se io produco e tu non domandi, quello che uno pensa normalmente, devo fermare la produzione, mi devo licenziare la gente, quindi sale l'inflazione e tutta un'altra serie di cose, no? Arias, economista, dice, non si fa così, se cala la domanda, aumenta l'offerta. Dice, ma sei matto, aumenta l'offerta. Ho tirato fuori, adesso le sue teorie sono state superate 80 anni dopo, ma ha fatto uscire fuori l'America dalla crisi del 29, copiando. Quindi, e nei momenti in cui dobbiamo fare l'austerity, uno deve tirare la cinghia, no? Produci il doppio, anziché licenziare gli operai, assumine ancora per produrre più roba e uscirai dalla crisi. Peccato che siano state superate queste, perché altrimenti ci avrebbero fatto molto comodo anche adesso queste teorie. Quindi se fai così, quindi se tu dai i soldi tuoi al Signore, ecco, e si danno al Signore dandoli ai suoi poveri, oppure al suo culto, diciamo così in senso ampio, i tuoi granai si riempiranno oltre misura e i tuoi trini traboccheranno di mosto. Quindi questo è un altro insegnamento da ritenere. Altra cosa, guardate, fondamentale, questo bisogna fare un copia e incolla, i versetti 11 e 12, fare un bel ingrandimento a carattere cubitale, fare una bella stampa, una bella cornice dorata e attaccarla sopra il letto. Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere annoia la sua correzione, perché il Signore corregge chi ama come un padre il figlio prediletto. Quindi se noi siamo suonati vuol dire che il Signore ci vuole bene. Io ricordo sempre le parole di un santo prete che ho conosciuto. Santo prete non vuol dire un prete santo, un incamminato, che mi diceva: fino a quando il Signore ti umilia, ti castiga, ti manda qualcuno che ti suona, ti fa sentire qualche predica che ti stuzzica, che ti storcherà, che ti scortica, devi essere di accende sempre cena alla Madonna, vuol dire che il Signore a te ancora ci pensa. Devi preoccupare quando queste cose non accadono più, perché se non accadono più vuol dire che il Signore ti reputa inconvertibile e quindi ti abbandona alla tua volontà, e lì sono guai. E poi c'è l'elogio della sapienza e dell'uomo che ha trovato la sapienza. Quindi beato significa felice, l'uomo che ha trovato la sapienza, è l'uomo che ottiene il discernimento. State attenti a questa virtù, il discernimento è in assoluto, io credo, perché il discernimento è una forma raffinata di sapienza e di prudenza. Non ce l'ha quasi nessuno. Discernimento vuol dire cosa fare nelle singole circostanze concrete. E guardate che questa è una virtù tanto fondamentale, perché noi in continuazione durante la giornata stiamo decidendo cosa fare. Voi adesso siete qui, se siete qui non siete altrove. Per essere qui avete fatto una scelta, d'accordo? Potevate farne altre mille differenti. Il discernimento è esattamente quell'arte difficilissima che consente di individuare in tutte le circostanze anzitutto la volontà di Dio, primo livello. Ho fatto la predica, una delle prediche di domenica scorsa, quella sulla gloria di Dio. Primo livello, bisogna anzitutto individuare la volontà di Dio, il che già. Poi la volontà di Dio, un po' meglio, la maggior gloria di Dio, quindi non soltanto quello che Dio vorrebbe, ma quello che sarebbe ancora meglio. E poi per i super discernitori, il massimo, il top. Questo non si acquisirà mai, mai, adesso poi lo vedremo anche in qualche luogo, non so se l'ho messo tra tre brani scelti, se non mettendosi sotto un giogo, che è l'obbedienza, soprattutto alla legge di Dio, ma è l'obbedienza anche a qualcuno che ti ispiri, che ti aiuti a imparare il discernimento. Quindi è una rendita che vale più dell'argento, è un provento superiore a quello dell'oro, la sapienza è più preziosa di ogni perla e quanto puoi desiderare non la eguaglia. Vedremo quando arriveremo al libro della sapienza, uno dei miei brani preferiti della Sacra Scrittura, la preghiera di Salomone per ottenere la sapienza. Si trova anche nella liturgia delle ore, nelle lodi del sabato. Io un po' di tempo che non faccio il breviario nuovo, che un po' di tempo faccio l'antico, dovrebbe essere la seconda settimana del sabato, comunque sicuramente è un sabato. La preghiera di Salomone per ottenere la sapienza penso sia uno dei passi più belli dei libri sapienziali. Ci arriveremo quando affronteremo il libro della sapienza. La sapienza è più preziosa di ogni perla, quanto puoi desiderare non le guaglia, lunghi giorni sono nella sua destra e nella sua sinistra ricchezza e onore, le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri conducono al benessere, è un albero di vita per chi l'afferra e chi ad essa si stringe è beato. Saltiamo qualche versetto. Figlio mio, custodisci il consiglio e la riflessione, né mai si allontanino dai tuoi occhi, saranno vita per te e ornamento per il tuo collo. Quindi consiglio e riflessione. Allora camminerai sicuro per la tua strada e il tuo piede non inciamperà. Saltiamo ancora qualche versetto. Adesso parliamo della carità verso i poveri, verso il prossimo. Non negare un bene a chi ne ha il diritto, se hai la possibilità di farlo. Non dire al tuo prossimo, va, ripassatelo, darò domani, se tu possiedi ciò che ti chiede. Quindi la carità va fatta bene e va fatta subito. Subito. Quando qualcuno ci chiede una cosa, non so, a me se c'è una cosa che molto facile che a me mi si irriti, perché purtroppo ma una delle cose che rappresentano quelle 4-5 che rappresentano delle prove spaventose, che ogni volta che il diavolo vuole far cadere mi prova su queste cose qua, è quando una persona ti fa una cosa e ci mette per fartela una quaresima. Sì, mo adesso lo fa, domani lo faccio, dopodomani lo facciamo. Si fa subito. Se tu vuoi fare subito una cosa, si fa subito. A me se mi chiedono una cosa, se posso, proprio siccome mi urta una cosa del genere, la faccio subito. Perché se c'è proprio una cosa che mi manda al manicomio, purtroppo, che vogliamo fare tra le tante, è questa. Tu ridi, ma dobbiamo combattere contro le tentazioni. Poi non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora fiducioso presso di te, e non litigare senza motivo con nessuno se non ti ha fatto nulla di male. Non invidiare l'uomo violento, non irritarti per tutti i suoi successi, vedete l'invidia, perché il Signore ha in orrore il perverso, mentre la sua amicizia è per i giusti. La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la dimora dei giusti. Questo versetto mi fa sempre pensare a quelle famose parole che mi sconvolsero tanto della Madonna di Fatima: ci sono molti matrimoni che non vengono da Dio, non sono benedetti da Dio, non piacciono a Dio. Sono parole sue queste qui, quindi non possiamo metterle. E io mi chiedevo la prima volta che le lessi, dico, ma è possibile una cosa del genere? Perché nel 1917 sicuramente i matrimoni erano tutti quanti sposati in chiesa. Mo che ci stanno tanti matrimoni che non piacciono a Dio, figurate, figuriamoci se gli piacciono quelli tra i gay, insomma. Ma sicuramente non gli piacciono neanche quelli al comune, neanche le convivenze, quindi mo è facile dire una cosa. Ma allora, tutti sposati in chiesa, com'è possibile? È possibile. Dei beffardi egli si fa beffe e agli umili concede la sua benevolenza. I saggi erediteranno onore, gli stolti invece riceveranno disprezzo. Quindi questo capitolo fa capire un po' lo stile proprio dei libri sapienziali. C'è un altro passo abbastanza significativo e bello, che è quello sulla sapienza creatrice, che è utilizzato tra l'altro nelle messe mariane, perché le parole che leggeremo sono dalla liturgia proprio applicate alla Madonna. Vedete, 8:22, qui sta parlando sempre della sapienza: il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera all'origine. Attenti, qui c'è il termine creare, mo vi faccio una piccola parentesi. Allora, se io vi chiedessi chi è la sapienza, punto interrogativo, la sapienza personificata è la seconda persona della Santissima Trinità, cioè il Figlio di Dio, il Verbo di Dio, si chiama anche in teologia l'eterna sapienza. Ora, sulla base di questo versetto 8:22, un grande eretico, Ario, ha negato la divinità di Cristo, perché dice, state attenti, il Figlio di Dio chi è? La sapienza eterna? Che c'è scritto qui? Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività. Cosa diciamo nel credo di Nicea? Generato, non creato. Queste parole sono state scritte proprio per andare contro Ario, che appoggiandosi a questo versetto diceva che il Verbo, perché, state attenti, se il Verbo fosse stato creato, cioè una creatura non è eterna, è qualcosa che ha un momento di inizio, perché presuppone, allora, ma Dio è eterno, perché Dio, a differenza di noi creature, non ha la data di nascita. Quindi se il Figlio fosse stato creato, quand'anche fosse stato creato un istante dopo che esistesse la divinità, secondo il nostro modo di pensare, non sarebbe Dio uguale al Padre. Capite? Se invece è generato della stessa sostanza, ab eterno, è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Allora, sulla base di questo versetto, allora però qui c'è scritto mi ha creato. Allora, ci sono due possibili, ci sono due interpretazioni autentiche, d'accordo? Numero uno è quella analogica, cioè in ebraico il verbo creare non è forte come nella letteratura, nel linguaggio greco o latino. A volte con creare si intende un sinonimo di ciò che noi intendiamo per generare, quindi in questo senso si può applicare questo versetto al Figlio di Dio, purché non si intenda creazione in senso stretto, d'accordo? E poi però si è affacciata presto una differente interpretazione che presuppone comunque un adattamento, perché altrimenti si dice un'altra eresia, e che è interpretata in relazione alla Madonna. Allora, la Madonna non è stata creata da Dio, cioè l'anima della Madonna non è che preesisteva a 2000 anni fa. La Madonna ha cominciato ad esistere all'incirca nel 14, 13, 12, 11, non lo sappiamo esattamente, però è uno di quegli anni lì, avanti Cristo. Quindi quando è stata creata la sua anima e infusa in forma miracolosa, perché l'Immacolata Concezione, in quell'esserino nato nel grembo di Anna, dal matrimonio di Anna e da San Gioacchino, e tra l'altro è nato umanamente la Madonna, quindi non è nata come Gesù per opera dello Spirito Santo. Però c'è un però. Già alcuni padri dicevano che la Madonna, pur non esistendo come creatura distinta da Dio, da sempre è stata presente nella sua mente, perché il primo pensiero di Dio è stata l'incarnazione del Figlio futura, e insieme all'incarnazione del Figlio c'è stato pensato da Dio lo strumento e il mezzo per realizzare questo, la festa che abbiamo celebrato, e che sarebbe stata la festa che abbiamo celebrato ieri, cioè la Madonna. Quindi questi versetti sono attribuibili alla Madonna, nel senso che, essendo la Madonna la creatura perfetta, la sua idea e la sua futura perfezione reale hanno guidato il Padre Eterno nell'opera della creazione. E questo è vero. Anche qui chiaramente bisogna utilizzare il termine creare in senso analogico, cioè non è che la Madonna già esisteva come creatura, la Madonna esisteva come pensiero nella mente di Dio, però un pensiero per esistere deve essere in qualche modo creato, quindi c'è questa interpretazione possibile di questo verbo. In ogni caso non va mai, sia che sia applicato al Figlio, sia che sia applicato alla Madonna, sono tutte e due letture possibili, non va mai inteso in senso stretto. Perché se lo intendi in senso stretto, nel primo caso dici un'eresia, perché dici che il Figlio è una creatura e non è uguale al Padre. Nel secondo caso dici un'altra eresia, perché dici che l'anima della Madonna preesisteva e non preesiste nessuna anima alla creazione. Questa è un'altra eresia che era propria di alcuni ambienti della filosofia greca. Perdonatemi la digressione, però se voi adesso tra poco arriva il mese di maggio, se fate attenzione, voi che adesso siete bravissimi agli incontri biblici, sentirete questo... E questa lettura tante volte nelle messe dedicate alla Madonna, proprio questa. Poi quando capita, vedo qualcuno di voi, vi interrogo e dico: che cos'era questo? Vi ricordate? Ci abbiamo fatto mezz'ora di predica all'incontro biblico. Allora, il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, vedete, dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Tenete presente questo, il doppio binario interpretativo, mano a mano che leggiamo, Quando non esistevano gli abissi io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche di acqua, prima che fossero fissate le basi dei mondi, dei monti, prima delle colline io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, nelle prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli io ero là, quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, cosicché le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice, guardate, ed ero la sua delizia ogni giorno, giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli degli uomini. Ora figli, ascoltatemi, beati quelli che seguono le mie vie, ascoltate l'esortazione, siate saggi, non trascuratela. Beato l'uomo che mi ascolta, vigilando ogni giorno alle mie porte, per custodire gli stipiti della mia soglia. Infatti chi trova me trova la vita e ottiene il favore del Signore, ma chi pecca contro di me, grandi parole, fa male a se stesso. E quanti mi odiano, amano la morte. Questo secondo me è altro... dei passi, insomma, molto belli dei libri sapienziali. Poi leggiamo qualcuno, non tutto il capitolo, per farvi capire un po' com'è lo stile della prima serie dei proverbi di Salomone. Andiamo al capitolo 12, per esempio, ce n'è qualcuno un po' carino. Per esempio, chi ama la correzione, ancora, quindi noi siamo sempre, non vogliamo mai essere improverati da nessuno, ama la scienza, e chi odia il rimprovero è uno stupido. Ok? Vedete, poi cambia completamente. Chi è buono ottiene il favore del Signore, il quale condanna il malintenzionato. Vedete come sono sganciati l'uno dall'altro. Non si consolida l'uomo con la malvagità, ma la radice dei giusti non sarà smossa. Poi, una donna forte è la corona del marito, ma una svergognata è come carie nelle sue ossa. I pensieri dei giusti sono equità, i propositi degli empi sono frode. Vedete, qui sono tre versetti adesso omogenei, è tutto quanto così. E le parole degli empi sono insidie mortali, ma la bocca degli uomini retti li salverà. Gli empi, una volta abbattuti, più non sono, ma la casa dei giusti resta salda. E adesso, quindi, l'empio e il giusto. Adesso ricambio argomento. Un uomo è lodato in proporzione alla sua intelligenza, ma chi ha il cuore perverso è disprezzato. Un uomo di poco conto che ha un servitore vale più di uno che si vanta a cui manca il pane. Il giusto si prende cura del suo bestiame, i sentimenti degli empi sono spietati, eccetera. Insomma, questo per dare un pochino un'idea di come sono strutturati i proverbi di Salomone. Poi c'è qualche piccolo passaggio per avere un pochino idea di questi proverbi dei saggi, al capitolo 24, che andiamo subito a vedere. Alcuni sono abbastanza carucci. Eccolo. Ok. Non invidiare le persone malvagie, non desiderare di stare con loro, perché il loro cuore trama rovine e le loro labbra non esprimono che malanni. Vedete, anche questi sono abbastanza sganciati. Con la sapienza si costruisce una casa e con la prudenza si rende salda. Con la scienza si riempiono le sue stanze di tutti i beni preziosi e deliziosi. Il saggio cresce in potenza e chi è esperto aumenta di forza, perché con le strategie si fa la guerra e la vittoria dipende dal numero dei consiglieri, va bene, eccetera. Andiamo verso la conclusione. Al capitolo 30 ci sono alcuni detti di Agur, e poi andiamo a vedere l'elogio della donna forte al 31, con la raccomandazione possibilmente di impararlo a memoria. Eccola qui. Allora, una donna forte, chi potrà trovarla? È così piccolo stavolta? È piccolo perché... È proprio piccolo? Vabbè. È piccolo perché questo c'ha, vedete che è alfabetico, c'ha l'alef, il bet, il gimel, ecco. E quindi è piccolo. Aspettate un attimo, proviamo un attimo a vedere un'altra partizione, vediamo un po' come è uguale. È piccolo perché è strutturato in forma alfabetica. Una donna forte, chi potrà trovarla? Vediamo un pochettino se cambiamo orientamento. Uguale. Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto, gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Non come oggi che le donne non sanno più mettere un bottone a una camicia. È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste, si alza quando è ancora notte, non alle 10. Distribuisce il cibo alla sua famiglia e dà ordine alle sue domestiche. Poi pensa a un campo e lo acquista, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia, quindi ha voglia di lavorare. È soddisfatta perché i suoi affari vanno bene, neppure di notte si spegne la sua lampada. Stende la sua mano alla conocchia, le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, quindi pratica la carità, stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito. Non vi do l'interpretazione allegorica, questa è applicabilissima alla Madonna, ci hanno scritto fiumi con tutte quante le allegorie di queste frasi, però veramente faremo mezzanotte se facciamo la lettura allegorica di questo. Si è procurata delle coperte. Di lino e di porpora sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città, perché ha sposato una santa donna. Quando siete in giudizio con gli anziani del luogo, confeziona tuniche, le vende e fornisce cintura al mercante. Forza e decoro, decoro sono il suo vestito. E fiducioso va incontro all'avvenire. Apre la bocca con saggezza. Questo è. E la sua lingua sono insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane della pigrizia. Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti. Suo marito ne tesse l'elogio. Il vescovo un po' di tempo fa ci diceva, fino a qualche tempo fa, si diceva, è morta quella santa donna di mia madre. Adesso più tempo passa e più si riduce la frase, è morta mia madre. Ecco, ci manca qualcosa, ci manca la frase canonica. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Beh, capite perché questo versetto si applica? Questo è facile capire l'interpretazione mariana, no? Illusorio è il fascino, care signorine, fugace la bellezza, che tanto diventerete tutte vecchie, storpie, sdentate, senza capelli, con orecchie a sventola e con occhio di vetro, magari. Ecco, ma la donna che teme Dio è da lodare, ecco. Siate riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Ecco, quindi questo bisogna meditarlo, impararlo a memoria, metterlo in pratica e diffonderlo. Perché, come diceva il proverbio africano, se tu converti un maschio salvi un individuo, ma se converti una donna salvi un popolo. Ecco, perché la delizia è la rovina del genere umano. Ecco, ecco. Beh, insomma, è costituita dalle donne. Ecco, ok? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.